Il giorno delle poppe e dei piccoli fianchi. La finestra butterata di pioggia cattiva. Pioggia cattivante come un prete. Folli e dementi ci accoppiammo accoccolate mentre la pioggia sinistra gocciava come mosche sulle labbra, sugli occhi contenti, sui piccoli fianchi. È gelida la stanza con la pioggia, dicesti, e tu femmina col tuo fiore, recitasti novene alle mie giunture. Sei il prodotto interno lordo, una potenza, o cigno mio vastasa, cara rosa lanosa. Anche un notaio ci autenticherebbe il letto quando mi impasti e lievito come pane.